Letture di Radio 24. Tony Ruttimann è uno svizzero di 44 anni che da 25 progetta e costruisce ponti. Ma non sono ponti come tutti gli altri, quelli di Ruttimann. Costruiti con materiale di scarto e con l'aiuto delle popolazioni locali, Tony viaggia nei luoghi più poveri del mondo per costruire opere che nessuno mai realizzerebbe. La sua vita è racchiusa in due valigie. In una tiene pochi vestiti e qualche oggetto personale. Nell'altra, quello che gli occorre per il suo lavoro. Altro non gli serve, se non centinaia e centinaia di metri di cavi d'acciaio, grazie ai quali ogni giorno 1.300.000 persone nel mondo possono passare da una sponda all'altra di un fiume per andare verso ospedali, scuole e campi da coltivare. Ecco l'identikit di Tony Ruttimann, nato 44 anni fa a Pontresina, nel Canton Grigioni, e ribattezzato Tony El Suizo, lo svizzero, dagli abitanti di decine di villaggi, dall'Ecuador all'Indonesia, del Costa Rica, del Laos, dell'Argentina e di qualsiasi altro angolo della terra dove è passato per lasciare il suo particolare segno, costruire un ponte. Un eroe invisibile, solitario e silenzioso, senza patria e senza stipendio, che in meno di 25 anni ha fatto nascere più di 500 ponti lunghi fino a 200 metri utilizzando i cavi dismessi dalle funivie elvetiche. Da un ingegnere olandese acquisisce le prime tecniche per la costruzione di ponti attiranti, copiando metodologie utilizzate dagli impianti petroliferi. E proprio da loro va a bussare per chiedere materiale di scarto, come vecchi cavi e tubi in acciaio, e coinvolgendo poi la popolazione locale nel recupero di terra, legno e pietre. Un perfetto gioco di squadra, finalizzato a un sogno, collegare due sponde. Dopo quella prima esperienza, Ruttimann decide di rientrare in Svizzera per iscriversi a ingegneria, ma il richiamo umanitario è troppo forte. Eccolo quindi di nuovo in Centro America. 11 anni tra Ecuador, Colombia, Nicaragua, Honduras, Costa Rica e il Messico. Là dove smottamenti, terremoti e inondazioni dividono in due un paese o un villaggio, lui si presenta, con le sue due valigie e un bagaglio di saperi e conoscenze da mettere a disposizione degli abitanti. La mia famiglia è il villaggio che mi ospita. I miei parenti diventano i campesinos che mi offrono un letto e dividono il loro pasto con me. Non ho bisogno di altro. I materiali mi vengono donati dagli impianti di risalita svizzeri e da alcune ditte specializzate in condutture per il petrolio, ed io sfrutto questi tubi come strutture portanti. 2 anni di malattia a causa della sindrome di Guillain-Barré, contratta in Cambogia nel 2002, non fermano l'attività di Ruttimann. Il sistema nervoso intaccato gli impedisce di muoversi e lavorare, ma grazie al computer continua la sua attività. Ristabilitosi nel fisico, l'uomo del ponte si rimette in pellegrinaggio. Un incontro casuale con un profugo cambogiano lo spinge a muoversi verso l'Asia. In Cambogia trova situazioni di sofferenza, afflizione e povertà. E ancora una volta la risposta che Tony offre per cambiare la vita, per ristabilire scambi e avvicinare la persona, è la stessa: unire quello che un fiume divide. E proprio in questi giorni Ruttimann, dopo aver fatto nascere ben 76 ponti, ha annunciato di voler lasciare la Cambogia, che in questi 10 anni è stata la porta che gli ha permesso di spostarsi anche in Indonesia, Vietnam e Laos. E ora sta concentrando i suoi sforzi in Myanmar, l'ex Birmania, dove i generali al governo hanno concesso il nulla osta ad entrare nel paese, a questo strano svizzero, indipendente da tutto e da tutti, senza fondi e senza nessuna organizzazione alle spalle, e che affida alla resistenza dei cavi la sua personale resistenza a fame, povertà e ingiustizia. Quando qualcuno mi chiede chi me lo fa fare, rispondo che non lo so, citando ciò che un Khmer di nascosto ha lasciato scritto nel cemento armato di un ponte cambogiano: nessuno capisce il mio cuore e i miei sentimenti. Questo ponte è il luogo che amo. Poche parole, ma che danno senso a tutto. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Io, missionario dei ponti impossibili, di Federico Taddia, dalla Stampa, di lunedì 7 marzo. Incenso chimico, preghiere elettroniche e statue virtuali. Anche i taoisti diventano high-tech e i loro templi ad alta tecnologia si trasformano in un'imitazione virtuale. In Cina anche il taoismo diventa high-tech. Il Wong Tai Sin, tra i più mistici templi di Hong Kong, ha inaugurato una statua elettronica che diffonde tra i fedeli fumo artificiale. Basta infilare una preghiera in una scatola. Il robot divinità, per indicare di aver accettato l'offerta, proietta l'immagine di un fuoco ed è possibile percepire un aroma chimico simile all'incenso. Un altro tempio di Kowloon ha investito 2 milioni di euro in una sala di preghiera virtuale. I visitatori vengono condotti sottoterra, in uno spazio illuminato da LED e regolato da sensori di movimento. La volta digitale riproduce il cielo di Hong Kong. Segue l'alternanza giorno-notte e il succedersi delle stagioni, come un planetario. I fedeli sfilano davanti a 60 statue virtuali di divinità dello zodiaco cinese. A ogni offerta reagiscono emettendo lampi colorati e soffi di fumo, profumato con l'aroma scelto da un computer. In poche settimane, i nuovi templi taoisti ad alta tecnologia hanno attratto più fedeli che in tutto lo scorso anno. Per rispondere ai riti spaziali del Vong Tai Sin, un tempio di Shenzhen ha lanciato la preghiera elettronica. Fino a pochi giorni fa, la gente aspettava ore per il rito del vascello. Riempito con 100 bastoncini di preghiera, veniva scosso fino a quando uno degli involucri cadeva in una ciotola. Il vaticinio contenuto nel cilindro era infine sottoposto all'interpretazione di un monaco presente. Il problema nasceva dalla difficoltà di assicurare che nel vascello fossero sempre presenti 100 bastoncini, secondo la prescrizione. Una macchina, sfruttando le frequenze radio, si occupa ora di questa mansione, eseguita in meno di 3 secondi. Il vascello viene scosso da un tasto elettrico. La preghiera è declamata da un computer che riconosce il linguaggio vocale e l'interpretazione è affidata a un calcolatore che contiene milioni di varianti. A Shanghai spopola invece l'e-praying. I fedeli sono troppo occupati per visitare regolarmente i templi taoisti reali. Preghiere e offerte vengono inviate ai monaci attraverso il sito Sixsik Yuan, che dà vita al primo tempio virtuale dell'Asia. I monaci ritirano in rete denaro e intenzioni, eliminando le domande false, e stampano le altre su carta da preghiera. Ogni 2 ore, secondo la tradizione, bruciano le suppliche e trasmettono online le immagini del rogo. Wong Tai Sin, responsabile dell'e-tempio, assicura che in 6 mesi ha ricevuto 40.000 offerte online. Anche la città di Xinhua ha aperto al futuro il taoismo. Nel tempio Chizong Daiyuan, un altare girevole visualizza il nome dei fedeli che sostano davanti alla divinità o quello di chi si vuole venga ricordato. Si versano pochi yuan e le generalità appaiono su un telo rosso, posto sotto le statue. Una voce metallica legge i nomi inseriti e assicura i miracoli richiesti. Salute, amore, denaro, lavoro, figli maschi e anche il successo in un concorso di bellezza. Durante le ferie dell'ultimo capodanno lunare, 2 milioni di persone hanno infine preso d'assalto il nuovo tempio taoista alla periferia nord di Pechino. La struttura languiva da anni, pressoché abbandonata. Un giovane miliardario, per ringraziare della sua fortuna, l'ha trasformata in un fantascientifico viaggio elettronico nel mistero. Una navicella pressurizzata tramite accelerazioni da jet conduce il fedele attraverso la storia della religione, portandolo al cospetto delle divinità più importanti e dei templi più sacri. Registra i suoi problemi, le attese e le richieste di intercessione. La possibilità di vedere realizzati i sogni dipende dall'importo offerto. A tutti è garantito il rimborso, almeno parziale, se dopo un anno nessun auspicio fosse stato accolto. Il taoismo, più di ogni altra religione, è da sempre una fede orientata al mercato. Il ricorso alla tecnologia per attrarre più fedeli a pagamento nei templi lascia però perplessi i cinesi. La gente si chiede se gli effetti speciali di ultima generazione possano essere applicati alla spiritualità, fino a che punto e quale sia il confine tra l'aggiornamento di un rito e la creazione di un Luna Park della scaramanzia. Il taoismo high-tech è l'ultima frontiera della speranza risolta in business e divertimento. E la Cina si chiede se anche l'anima può rivelarsi un'imitazione virtuale. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Incenso chimico di Giampaolo Visetti da D del 5 marzo.